Focus Economia. Con Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, sono le 17:07 minuti, nuovo appuntamento con Focus Economia. Di che cosa parleremo oggi? Oggi parliamo di federalismo fiscale, prima di tutto partendo da uno studio del Partito Democratico proprio sui trasferimenti ai comuni. Da questo studio deriverebbe che questi trasferimenti non sarebbero più gli stessi, ci sarebbe un ammanco di circa 400 milioni. C'è stato poi anche un controstudio del Popolo delle Libertà. Cercheremo di capire meglio con il collega del Sole 24 Ore Gianni Trovati se sono proprio novità queste che emergono dallo studio del PD e a conti fatti se davvero ci saranno queste difficoltà per i comuni, come da più parti sembra venire proprio questo allarme. Poi parleremo del tavolo su Pomigliano, della NewCo che parte, delle nuove assunzioni, delle riassunzioni, delle regole che ci saranno nello stabilimento, e anche qui lo faremo grazie al collegamento con il nostro collega Vincenzo Miglietta, che ha seguito il tavolo partito questa mattina proprio appunto su Pomigliano, sullo stabilimento Fiat di Pomigliano. E poi parleremo di consumi natalizi e dei saldi che sono alle porte. Confcommercio ha già stimato la spesa media delle famiglie italiane e cercheremo di capire quali sono le difficoltà anche per questi saldi, le difficoltà che ci sono state per il Natale. Da più parti si è detto che è stato un Natale piuttosto freddino, gelo per quanto riguarda gli acquisti. Non è proprio di questo avviso la Confcommercio, ma capiremo di più più in là nel corso del programma. Adesso, come sempre, una panoramica su quanto sta accadendo sui mercati. Diciamo subito che la giornata, almeno per quanto riguarda l'Europa, era partita con il segno più. Via via nel corso della seduta si è andata indebolendo. In questo momento Parigi cede uno 0,01%, Francoforte uno 0,02%, Londra, ricordiamo, è chiusa anche oggi per festività. A Milano leggermente più pesante il FTSE All Share e il FTSE MIB cedono intorno allo 0,2-0,3%. Che cosa sta succedendo in America? Il Dow Jones cede uno 0,02%, il Nasdaq guadagna uno 0,14%. Da questo punto di vista ci sono stati alcuni dati contrastanti per quanto riguarda gli Stati Uniti. Sembrano essere andate piuttosto bene le vendite natalizie, la fiducia dei consumatori però è in calo e sono calati anche i prezzi delle case oltre le attese degli analisti. Sul listino principale, per tornare a Milano, il miglior titolo è Fiat. Fiat ha brillato per tutto il giorno, guadagna l'1,6%, Buzzi Unicem lo 0,99%, Ansaldo lo 0,94%, Exor guadagna lo 0,9%. In fondo al listino invece il peggior titolo è Tods, che cede il 2,31%, di Asorin l'1,55%, la Popolare di Milano l'1,47%, Impregilo l'1,39%. Per quel che riguarda i cambi, l'euro viene scambiato 1,31,15 sul dollaro, 349-238-6666 per i vostri SMS. Adesso tutte le notizie in breve. Partiamo dalle materie prime. Come sempre, l'oro sale a 1391,9 dollari, l'oncia in progresso dello 0,6%. Anche il petrolio apre in rialzo a New York, più 0,7% a 91,66 dollari al barile. Il dollaro è debole sul mercato dei cambi dopo il calo maggiore del previsto dei prezzi delle case negli Stati Uniti. Intanto vola a livelli record il franco svizzero e non si ferma la corsa dello yuan, oggi ai massimi da novembre, non lontano dal record segnato lo scorso mese. Riprendono a salire gli spread tra i titoli di Stato dei paesi periferici di Eurolandia e il Bund tedesco. Il differenziale di rendimento tra i titoli irlandesi a 10 anni e il Bund è salito a 627 punti, quello dei bond spagnoli a 253 punti, quello portoghese a 363, quello greco a 940 e quello dell'Italia a 178 punti. La Banca Centrale Europea ha acquistato la scorsa settimana titoli di Stato per 1,1 miliardi di euro contro i 603 milioni della settimana precedente. L'incremento degli acquisti indica un rinnovato timore dell'Istituto Centrale circa una possibile ripresa della crisi dei debiti sovrani. Questo è quanto riferisce il Financial Times, precisando che gli acquisti si sono concentrati sui titoli portoghesi e irlandesi. Sempre la Banca Centrale Europea non è riuscita a drenare dai mercati tutti i 73,5 miliardi di euro di liquidità che si era prefissata di assorbire proprio per sterilizzare gli acquisti di titoli di Stato fin qui realizzati. L'Eurotower ha reso noto di aver assorbito solo 60,78 miliardi di euro dal sistema attraverso i depositi a 7 giorni. E restiamo sempre in Europa, i paesi dell'area euro devono ridurre i propri debiti e l'Unione Europea deve sanzionare quelli che non lo fanno. Questo è quanto ha scritto il ministro delle finanze tedesco in un editoriale sul quotidiano belga L'Echo. Dati francesi, il debito pubblico complessivo della Francia, debito dello Stato, del sistema di welfare e degli enti locali, alla fine del terzo trimestre è leggermente calato a 1.574 miliardi di euro, pari all'81,5% circa del PIL. Restiamo in Francia. L'economia nel terzo trimestre 2010 è cresciuta meno del previsto, ovvero dello 0,3% rispetto al trimestre precedente. Questo è quanto ha reso noto l'Istituto di Statistica francese, rivedendo al ribasso la precedente stima dello 0,4%. Il ritmo di crescita si è così dimezzato rispetto al più 0,6% del secondo trimestre. Su base annua il PIL francese è aumentato dell'1,7% contro la precedente stima dell'1,8%. Veniamo in Italia. Nel 2011 il PIL del nostro paese dovrebbe continuare a crescere dell'1%, dell'Eurozona dell'1,7%, negli Stati Uniti del 3,1%. Queste sono le previsioni del servizio studi di Intesa San Paolo, che vede una crescita globale ancora superiore al 4%. Nei primi 10 mesi di quest'anno si è assistito alla chiusura di 23 accordi, poco più di 3 milioni di dipendenti che nella maggioranza dei casi, 15 su 23, adottano il nuovo modello triennale, quanto fa sapere l'Istat nel rapporto sulle relazioni industriali e la recente dinamica retributiva contrattuale. E a proposito di lavoratori, di contratti, con il blocco degli stipendi pubblici fino al 2013 deciso dalla manovra economica, i lavoratori del pubblico impiego perderanno complessivamente circa 1.600 euro di potere d'acquisto. La stima arriva dalla CGIL, che sottolinea come circa 1.200 euro lordi si perderanno per il triennio 2010-2012 di mancato rinnovo dei contratti, mentre altri 400 euro di aumenti complessivi mancheranno all'appello nel 2013 a causa del blocco ulteriore previsto dalla stessa manovra. Per i dirigenti della pubblica amministrazione è in arrivo una sforbiciata sugli stipendi dal 2011. Infatti, secondo quanto prevede la manovra economica approvata quest'estate, i trattamenti complessivi dei singoli dipendenti della pubblica amministrazione, anche di qualifica dirigenziale superiore ai 90.000 euro, saranno ridotti del 5% per la parte eccedente il limite. E tagli anche al Quirinale. Il Presidente della Repubblica Napolitano ha adottato i decreti attuativi nell'ordinamento interno per il triennio 2011-2013. In particolare sono applicate le trattenute del 5 e del 10% sugli stipendi superiori ai 90.000 e ai 150.000 euro. Per quanto riguarda tutti noi consumatori, la crisi economica non ha frenato nell'ultimo triennio in Italia la corsa delle tariffe pubbliche, ben superiore al dato inflattivo degli ultimi 3 anni. L'allarme arriva dalla CGIA di Mestre, che ha calcolato l'incremento tra il 2008 e il novembre del 2009 dei costi di alcuni principali servizi pubblici. La variazione più importante è quella dei pedaggi autostradali, che hanno subito un rincaro del 10%, il gas dell'8,9%, le ferrovie dell'8,7%, i servizi postali del 7,3%, solo l'energia elettrica cala dello 0,4% e l'acqua potabile cala dell'1,2%. E ancora per i consumatori non sono in arrivo buone notizie. Stangata di oltre 1.000 euro sulle tasche delle famiglie italiane per il prossimo anno, questo è il calcolo dell'Adusbef e della Federconsumatori. Tra i rincari di alimentari, benzina, tariffe, assicurazioni e servizi bancari, il 2011 sarà un anno infelice, un impatto stimato di 1.016 euro annui a famiglia. Secondo il ministro dello sviluppo economico Paolo Romani, annuncia in un colloquio con il Sole 24 Ore la sua intenzione di portare il riassetto degli incentivi alle imprese ad uno dei primi consigli dei ministri del nuovo anno. Questa dovrebbe essere una buona notizia, almeno appunto per le piccole e medie imprese. Il ministro spiega che si tratta di una riforma di metodo che definisce una cornice semplificando e cancellando norme inutili. Qui diciamo si esauriscono le nostre le notizie in breve. Noi adesso arriviamo a quello che è il nostro argomento principale della giornata, della puntata. Parliamo di federalismo, gli effetti sui comuni. Per introdurre il tema di oggi, appunto il federalismo e gli effetti sui comuni, abbiamo preparato per voi una scheda che cerca un po' di fare il punto della situazione. Il federalismo non sarà indolore, almeno non per tutti. Del resto sarebbe stato ingenuo sperare il contrario, visto che la riforma ha tra i suoi obiettivi quello di migliorare l'efficienza e i bilanci delle amministrazioni meno virtuose. A tal fine, i trasferimenti dallo Stato centrale verranno eliminati e sostituiti con tasse di pertinenza comunale con esiti molto diversi da città a città. Da una simulazione effettuata dal PD applicando il nuovo sistema a 92 capoluoghi di provincia, emerge che 52 comuni avranno dei benefici, mentre gli altri 40 saranno penalizzati. Complessivamente, a disposizione dei 92 capoluoghi ci saranno 445 milioni in meno, ma i tagli graveranno in buona parte nelle città del Mezzogiorno. Particolarmente penalizzate, ad esempio, Napoli e L'Aquila, che con la riforma a regime perderanno il 60% delle risorse. Va precisato che il capoluogo campano riceve oggi trasferimenti aggiuntivi legati all'emergenza rifiuti che portano la quota per abitante a 668 euro contro una media nazionale di 387 euro. Il dato dell'Aquila è a sua volta in parte falsato dai finanziamenti legati al terremoto oggi in bilancio. La ricetta federalista sarà indigesta anche per Palermo, che perderà 185 milioni l'anno, per Catania meno 62 milioni e ancora per Messina e Taranto. Le penalizzazioni riguardano prevalentemente il Mezzogiorno, ma non solo. Il budget diminuirà ad esempio del 9% a Torino e del 22% a Genova. Cinghia più stretta pure per Roma, che perderà 129 milioni, il 10% del bilancio attuale. Ridotti i fondi, i comuni con i conti in rosso si troveranno di fronte a una scelta drastica. O si riduce la spesa o si aumentano le tasse. Non si potrà più sperare, insomma, nell'aiutino che arriva dal governo centrale. Viceversa, tra chi vedrà crescere le sue risorse spicca il caso di Olbia, che dovrebbe vedere i suoi introiti balzare del 180% grazie soprattutto ai proventi delle seconde case. Tra le grandi città, il federalismo dovrebbe rivelarsi un affare per Milano con quasi 170 milioni in più e in generale per buona parte delle città del nord. Bene anche Emilia-Romagna e Toscana, le risorse a disposizione saliranno infatti anche a Bologna, Parma, Firenze e Siena. Allora, avete sentito la nostra scheda, nel frattempo ci ha raggiunto anche il collega del Sole 24 Ore Gianni Trovati, che saluto. Buon pomeriggio. Salve, buongiorno a voi. Gianni. E i dati che avete sentito nella nostra scheda sono contenuti in uno studio realizzato dal senatore del PD Marco Stradiotti, lo abbiamo raggiunto poco fa chiedendogli innanzitutto come si è giunto alla formulazione della cifra finale. La cifra viene fuori da un calcolo molto semplice, cioè prendendo quello che è l'articolo 1 e 2 del decreto legislativo che è in approvazione in commissione bicamerale, non ho fatto altro che mettere insieme quelle che dovrebbero essere le entrate che uso il condizionale, che dovrebbero andare direttamente a ogni comune sulla base di quelle che sono le imposte di registro, l'imposta ipotecaria, la cedolare e l'IRPEF sugli immobili, tolto il reddito agrario. Ho fatto la somma comune per comune e rispetto a questo ci si accorge che esiste una situazione squilibrata, nel senso che per i capoluoghi, ad esempio, ci sono circa 400 milioni di euro in meno, ma se prendiamo tutti i comuni non ci sono risorse in meno, perché sul tavolo del Ministro dell'Economia è uno scambio alla pari, ossia viene dato del gettito ai comuni e vengono tolti una pari importo di trasferimento agli stessi enti locali e agli stessi comuni. Cosa succede? Succede che però quando scendiamo di quota e quindi andiamo a vedere spalmato sul territorio cosa capita, capitano le cose più strane. Adesso, al di là della questione L'Aquila o della questione Napoli, dove ci sono dei trasferimenti straordinari per le contingenti situazioni, da una parte il sisma, dall'altro i rifiuti, eccetera, ma che però sono straordinarie. Ma tolte queste due città, se guardiamo anche le altre, se guardiamo anche i piccoli comuni, io lo studio l'ho fatto anche sui comuni del Veneto, ci accorgiamo che ci sono delle situazioni, tra virgolette, privilegiate, solo per il fatto che in quel territorio non c'è un'attività particolare, ma ci sono dei cespiti particolari, cioè ci sono degli immobili particolari, sto pensando ai comuni turistici. E quell'amministratore non avrà nessuna difficoltà a trovare le risorse per garantirsi le entrate per dare i servizi. Mentre il comune vicino, magari, che non è turistico o dell'entroterra, si troverà nella situazione e magari ha più bimbi a cui dare il servizio, ha più anziani, ha più situazioni di disagio, si troverà nella situazione che non ha le risorse e che quindi dovrà autonomamente chiedere le risorse ai cittadini. Come lo può fare? Con la famosa IMU. L'IMU è la nuova imposta municipale unica, però l'IMU, purtroppo, coi vincoli previsti nel decreto, potrà attingere solo ancora una volta sui cespiti immobiliari e sulle seconde case. Ma se non ci sono seconde case, quel sindaco dovrà chiedere a chi ha bisogno dei servizi un maggiore pagamento rispetto alle tariffe. Alla fine cosa succede? Che fai un meccanismo che va a pesare solo ed esclusivamente sulle famiglie con figli, con anziani, con portatori di handicap. E allora qual è la soluzione? La soluzione è quella di prevedere un mix diverso, nel senso che sia più equilibrato, perché in questo senso c'è l'IVA, che viceversa è un'imposta molto più equilibrata nel territorio, sia all'interno del stesso territorio, all'interno della stessa regione, sia all'interno della differenza tra nord e sud. E quindi, esempio, pensando su questa possibilità, fare un mix fra le tasse immobiliari, e questo può essere un modo per dare una risposta. Viceversa, cos'è che ci viene prospettato? Quella di fare un grande fondo perequativo che ammortizza le differenze. Ma quando tu hai creato un grande fondo perequativo, se queste sono le differenze, rischi che il sistema resti uguale ad oggi. Ossia, rischia che il comune gli arrivi comunque i soldi dall'alto, cioè gli arrivino invece che da un fondo del Ministero dell'Interno, come succede attualmente, da un fondo del Ministero dell'Economia, che invece di chiamarsi trasferimenti si chiamerà trasferimento del fondo perequativo, ma ai fini del federalismo fiscale non sarà la stessa cosa, perché la cosa che può funzionare è se le tasse pagate dal territorio, dai cittadini e all'amministrazione locale, poi vengono utilizzate per dare servizi nel territorio. Allora in questo modo il federalismo svolge la sua funzione di essere da stimolo contro gli sprechi e da stimolo per la lotta all'evasione fiscale. Senatore, lei è vero ha fatto i casi di Napoli e dell'Aquila, che sono un po' casi estremi. No, però io ho fatto tutti i capoluoghi, ecco. Poi giornalisticamente ho visto che questo ha fatto più effetto, ma io su questo non, cioè il mio studio non fa un'analisi politica facendo una critica a questo o a quello, fa solo un ragionamento dicendo stiamo attenti perché i numeri ci dicono che rischiamo di fare un'operazione difficile e complicata che alla fine non mi dà la soluzione. Prima di commettere questo errore pensiamoci. Perché ci sono alcuni comuni che magari fino adesso hanno amministrato male le risorse che hanno, e quindi eliminare parte di queste risorse potrebbe fungere da stimolo. Ma guardi, io sono tra quelli che ritengono che gli amministratori locali che chiedono direttamente le risorse ai propri concittadini, poi alla fine quando le devono spendere quelle risorse stanno molto più attenti, e questa è la funzione fondamentale del federalismo. Quindi personalmente non mi preoccupo se alcuni comuni che oggi hanno i trasferimenti più alti rispetto a tutto il resto d'Italia subiscono qualche taglio, probabilmente è solo salutare. Ma io mi riferisco, per questo ho svolto questo tipo di lavoro, per dire, io l'ho fatto per tutti i comuni del Veneto, e lei capisce che ho trovato che, per dire, Cortina avrebbe un 300% in più, mentre il comune vicino, che è quello di Lamont, non è proprio vicino, ma che è uno dei comuni che ha fatto richiesta un referendum di passare in Trentino Alto Adige perché hanno una situazione effettivamente insostenibile, perché dall'altra parte del passo pagano metà albergo a fondo perduto, metà stalla o metà attività produttiva, intendo la provincia autonoma, dalla parte di qua non hanno neanche le lacrime per piangere. Ebbene, quel comune al 40% in meno, avrebbe il 40% in meno. E allora questo non funziona, per dire, Jesolo il 400% in più, questo non può funzionare. Allora, il mio studio non voleva e non vuole assolutamente fare un ragionamento relativamente alla questione nord-sud, perché se al nord o al sud ci sono comuni che sprecano, questi non devono più farlo, e quel sindaco deve avere la capacità di lui chiedere le risorse ai suoi cittadini, in maniera che se le spreca stai pur certo che quel cittadino arriverà in municipio a lamentarsi, mentre se i soldi arrivano da Roma in qualche modo va sempre bene. Quindi questo è fondamentale, però è chiaro che quel sindaco che oggi si troverebbe teoricamente ad avere il 400% in più non è portato a fare buona amministrazione. Alcuni esponenti del PDL hanno criticato, in particolare ho letto le affermazioni dell'onorevole Napoli, il quale dice che i dati da lei utilizzati, che sono quelli del COPAF, non corrispondono ai trasferimenti effettivi, perché il COPAF non ha mai pubblicato i dati comune per comune, ma solo a livello regionale. Io ho fatto un lavoro che prende proprio dal COPAF i dati che COPAF ci ha trasferiti, che sono dell'Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda poi i trasferimenti comune per comune, sono andati a prendermeli personalmente, ma può farlo chiunque dei radioascoltatori, dal sito del Ministero all'Interno, dove ci sono le spettanze comune per comune. Quindi non ho fatto altro che mettere insieme questi dati che sono assolutamente pubblici. Quello che io dico è che se pensiamo nell'approccio al federalismo, che il federalismo è un problema da cui difendersi, e quindi con un approccio difensivo, invece di considerarlo come uno strumento per risolvere i problemi, come lo ritengo io, non riusciamo a farlo bene. In questo senso il mio lavoro, il lavoro che ho fatto con i dossier, non è stato quello di demolire il federalismo, ma dire: colleghi, stiamo attenti a non commettere l'errore, perché altrimenti uno strumento che potrebbe diventare utile per combattere l'evasione fiscale e per combattere gli sprechi rischia di non dare questo tipo di soluzione, appunto, se fatto in questo modo. Tutto qua. Allora, Gianni Trovati, collega del Sole 24 Ore, che ne sa e molto anche di più di federalismo fiscale e tutta la materia. Al di là della polemica che è nata dopo questo studio, perché poi c'è stato un controstudio del PDL, insomma si sono un po' agitati perché come al solito si accusano, si riaccusano, si rimpallano. Comunque c'è, mi sembra di capire, un problema di fondo su questi trasferimenti, perché ci sono dei comuni che sono sul piede di guerra. Sì, esatto, sì. Il bello, diciamo, di questa fase del federalismo è che ognuno tira fuori dei numeri più o meno definiti, con più o meno attendibilità. Allora, il problema di fondo messo in luce, diciamo, dalle tabelle, dalle analisi di Stradiotto, che è un po' il problema che anche il Sole 24 Ore qualche settimana fa aveva tirato fuori facendo un'analisi, diciamo, simile, anche se un po' più circoscritta, è il seguente. Cioè, da un lato, oggi, diciamo, le risorse per trasferimenti vanno a finire soprattutto, adesso semplifico così cerchiamo di capire qualcosa, vanno a finire soprattutto al centro-sud, dove invece le risorse fiscali sono minori. Con il nuovo sistema basato, con il futuro sistema basato sulle tasse immobiliari, saranno favoriti quei comuni che hanno un fisco immobiliare, diciamo, un po' più vivace, quindi un mercato immobiliare più vivace, più compravendite di immobili e valori anche catastali un po' più aggiornati rispetto alla media. Questo determina una situazione, un po' una lotteria, diciamo, una situazione a macchia di leopardo, per cui tu avrai soprattutto dei piccoli comuni, magari non turistici, che quindi hanno un patrimonio immobiliare abbastanza fermo, diciamo così, abbastanza di basso valore, avranno più penalizzazione, appunto, magari del vicino comune turistico, eccetera. Va tenuto in considerazione che naturalmente queste sperequazioni, che sono all'interno dei territori e poi fra diversi territori, sono ovviamente note, insomma, sono state prese in considerazione. Si cita chi, per esempio, ha criticato dalla maggioranza e così via lo studio che abbiamo citato, cita il ruolo che effettivamente sarà importante del fondo perequativo. Un fondo appunto chiamato a non ad azzerare le differenze, ma insomma ad avvicinare tra loro i comuni. Ci fermiamo per qualche istante perché dobbiamo dare il meteo, ma torniamo tra pochissimo e cerchiamo di capire anche qualcosa di questo fondo perequativo. Ci eravamo lasciati qualche istante fa parlando all'interno del federalismo di fondo perequativo, un fondo che dovrebbe appunto servire per limare le differenze tra i vari comuni. Però Gianni, ti chiedo, oltre a chiederti un po' come funziona, ma proprio in modo molto semplice, questo fondo, ma non si rischia, come diceva il senatore Stradiotto, di cadere nuovamente in un meccanismo un po' deviato, per cui chi ha bisogno lo si va ad aiutare, un po' come succede oggi, insomma? Sì, si rischia, senza dubbio si rischia, nel senso che sul come funziona siamo in attesa di capirlo, perché per esempio il fondo perequativo, che è previsto dall'articolo 13, se non mi ricordo male, della legge delega, deve poi essere disciplinato, normato, eccetera. Bisogna capire, ma questo è già abbastanza chiaro, quali voci lo alimenteranno, ma soprattutto poi come saranno i criteri di distribuzione. Allora, qui si rischia di fare un discorso zoppo, nel senso che il federalismo è fatto da autonomia appunto impositiva, eccetera eccetera, più la perequazione, ma è fatto anche di livelli standard dei costi. Allora, prima di capire a regime come andranno ripartite le risorse e con quali modalità, bisognerà capire anche qual è il cosiddetto fabbisogno standard, ma per semplificare, il livello giusto, diciamo, dei costi di ogni servizio comunale, che livello giusto su cui ogni comune potrà contare, perché il sistema dovrà in qualche modo garantire a tutti il finanziamento integrale con le risorse proprie più la perequazione dei livelli standard delle funzioni essenziali. Quindi, voglio dire, almeno a livello teorico non ci dovrebbe essere un territorio o un comune che rimane senza soldi per appunto svolgere quelle che sono le funzioni fondamentali proprie dei comuni. Però tutto il sistema dei fabbisogni standard è ancora tutto da costruire. Lo deve fare la SOSE, che è la società che ha fatto gli studi di settore, insieme all'IFEL, che è l'istituto dell'ANCI per la finanza locale, poi c'è la ragioneria, l'Istat, insomma si devono mettere lì. È una cosa complicatissima e ricca di incognite, su cui alcuni studiosi, per esempio penso Giarda, che insomma è un grande nome della scienza delle finanze, nutrono qualche perplessità sulla fattibilità, nel senso che in effetti, come dire, andare a calcolare in ogni sulla base dei costi effettivi di ogni comune, dalle Alpi alle piramidi, dalle piramidi no, ma quasi, insomma, qual è il costo di ogni servizio, non è proprio una cosa semplicissima. Quindi la teoria, diciamo, tiene conto un po' di tutti i problemi che abbiamo evidenziato nella prima parte. La pratica, bisogna vedere se tutte le levette di questo meccanismo, che è estremamente articolato, andranno a finire al posto giusto. Le questioni sono molte, e c'è anche un'altra questione di fondo, diciamo generale, molto ben comprensibile, legata al fatto che la manovra estiva, l'ultima, sì, insomma, quella approvata a luglio, convertita in legge a luglio, taglia i trasferimenti dei comuni di 1,5 miliardi per l'anno prossimo, più un altro miliardo per l'anno dopo, fanno 2,5 miliardi. La domanda è, i livelli garantiti dal federalismo saranno i livelli pre-taglio o post-taglio? Ecco, la cosa bella è che la manovra assicura che saranno i livelli pre, il decreto invece parla dei livelli post, quindi voglio dire, i problemi sul campo sono molti, e tanto è vero che il passaggio in conferenza per il parere c'è stato dopo lunghissima trattativa con le regioni e le province, non c'è stato con i comuni, perché i punti interrogativi su tutta la vicenda del federalismo municipale sono molti, a partire per esempio dall'aliquota, diciamo, di riferimento dell'IMU, che citava anche Stradiotto, sì, perché si sa quali sono le voci che andranno a alimentare questa nuova imposta municipale unica basata sugli immobili, quindi IRPEF, la vecchia ICI, quella, sì, sopravvissuta, eccetera, eccetera. ma non si sa qual è l'aliquota di riferimento, o meglio, girano dei numeri, ma ufficialmente non c'è nulla. Quindi si capisce bene che se uno fissa un'aliquota a un livello, diciamo, troppo basso, poi c'è il rischio che il sindaco rimanga col cerino in mano a dover indossare la maschera del tassatore folle solo per poter sopravvivere, diciamo così, per avere il livello prima. C'è però il rischio che se tu piazzi un'aliquota troppo alta, anche se la base imponibile è diversa dall'ICI che noi andremo ad abbandonare, insomma, se tu hai un ICI ordinario al 7 per 1000, fissi un IMU al 12 per 1000, che è quasi il doppio, e beh, politicamente non è tanto simpatico, anche perché tutti hanno detto, insomma, con il federalismo si abbasseranno le tasse e ci saranno gli stessi servizi, o anzi, ecco, chissà se poi questo sarà vero. Non lo so, no, ecco, questo è molto complicato. Diciamo che sicuramente a livello teorico, diciamo così, le realtà che sono in grado di gestire meglio le proprie risorse, da un lato, e che hanno, grazie al territorio più ricco per varie ragioni, risorse maggiori, avranno più possibilità, diciamo, diciamola così, di avere un rapporto produttivo e simpatico con i propri cittadini piuttosto che altre realtà più in difficoltà. Sicuramente che ci siano dei margini di miglioramento per alcuni comuni è indubbio, lo mette in evidenza anche, ad esempio, uno degli studi della Confartigianato sui costi della politica nelle regioni italiane. Lo citavamo anche ieri: in Lombardia ogni cittadino spende 61 euro l'anno per burocrazia e politica regionali. In Campania il doppio, anzi oltre il doppio, nel Lazio 247 euro, in Molise 333 euro a testa. Sì, no, ma poi l'aneddotica e i numeri su questo versante sono infiniti. La Lombardia, regione Lombardia, ha circa 3600 dipendenti, la regione Sicilia ne ha appena stabilizzati 5000 in aggiunta, voglio dire. Questi sono effettivamente, come dire, il problema alla base è chiarissimo. Per esempio, prima si citava il problema di Napoli dei rifiuti. Sì. Ora, oltre a questi livelli trasferimenti statali molto maggiori rispetto alla media, per esempio a Napoli c'è stata nel 2009 il maxi rincaro della TARSU, quindi della tassa per i rifiuti, perché per l'emergenza si imponeva, no, di coprire il costo. C'è stato un rincaro del 60%, è la TARSU più alta d'Italia, e il problema è che la riscossione effettiva è quasi zero, cioè circa il 12%. Infatti hanno aumentato del 60% la TARSU, ma le risorse effettivamente in bilancio sono rimaste quelle dell'anno prima, perché i livelli di pagamento sono bassissimi. La discussione è aperta: non la pagano e quindi hanno l'emergenza, oppure se tu hai i sacchetti, diciamo, fino al balcone tutti magari i giorni, non ti viene tanta voglia di pagarla. Questo non c'è dubbio. Però, diciamo, questo qui, il caso di Napoli, ma come mille altri, insomma, sono i casi più evidenti del disastro a cui ha portato il sistema della finanza, diciamo, derivata, che sostanzialmente dà agli amministratori X, non parlo di nome e cognome, dà agli amministratori la facoltà di spesa, ma non dà agli amministratori la responsabilità di entrata. Ora, ci sono amministratori di ogni tipo e genere, certo, sia in Veneto, sia in Lombardia, sia in Campania, e quindi ci sono situazioni di ogni genere, sia in Veneto, sia in Lombardia, sia in Campania. L'idea del federalismo è quella di dare un controllo, cioè io ti do tot risorse, ma so come le spendi. Diciamo, questa è una bellissima, nobilissima idea, ma come anche mostravano i numeri che citavamo prima, diciamo, poi attuarla in pratica per limare quelle differenze territoriali che non hanno nessuna giustificazione rende di molto difficile attuazione pratica, diciamo, questo principio. Grazie a Gianni Trovati, collega del Sole 24 Ore, per averci aiutato a capire qualcosa di più di che cosa sta succedendo e a che punto è questo federalismo fiscale. Noi adesso invece andiamo sui mercati per capire qual è stata la giornata di oggi. Buon pomeriggio e benvenuta a Livia Zancanera, collega di Radio Cora Sole 24 Ore. Ciao Livia. Ciao, buonasera. Allora, una battuta spot prima poi di dare la linea al Via Libera per capire quali sono le informazioni per i viaggiatori. Una giornata che si è chiusa con il segno meno. Sì, allora la giornata per l'Istria milanese si è chiusa con un calo dello 0,3% circa. Milano, bisogna dire che è stata la piazza peggiore. Gli istriani hanno sofferto soprattutto di alcuni dati americani sotto le attese, in particolare della fiducia dei consumatori di dicembre, dei prezzi delle case, appunto, che sono scesi oltre le stime nel mese di dicembre. Allora Livia, ti chiedo qualche istante di pazienza, noi diamo la linea alla viabilità. Le 17.46, stiamo analizzando la giornata di borsa, lo stiamo facendo con la collega di Radio Coro Sole 24 Ore, Livia Zancaner. Allora, dicevamo, una giornata che si chiude con il segno meno per Milano, FTSE All Share meno 0,25%, FTSE MIB meno 0,32%. In Europa, Parigi chiude con una leggera flessione dello 0,09%, Francoforte guadagna uno 0,02%, attualmente il Dow Jones è praticamente piatto, meno 0,01%, il Nasdaq poco sopra la parità, più 0,08%. Allora, Livia, tornando a Milano, tornando sul listino principale, il peggior titolo è Tod's, che chiude con una flessione del 2,58%. Sì, allora le azioni sono tornate a perdere terreno oggi dopo la battuta d'arresto della vigilia e arrivano a registrare una perdita di oltre il 13% da metà dicembre, quando i Fratelli della Valle hanno comunicato di voler collocare una quota pari al 10% del capitale del gruppo. La cessione della partecipazione, che è stata curata da Mediobanca e comunicata al mercato il 14 dicembre, è stata realizzata a un prezzo pari a uno sconto sul valore del titolo superiore al 9% e il mercato quindi non ha apprezzato la notizia. Livia, per quanto riguarda Diasorin, che è il secondo titolo peggiore di oggi, meno 1,58%, a pochi giorni dal debutto. Sì, infatti, allora le azioni oggi hanno, con la chiusura negativa di oggi, hanno praticamente annullato i guadagni realizzati dal giorno dell'ingresso nel passaggio più che altro al FTSE MIB, che è il paniere principale, lo scorso 20 dicembre. Quindi nel giorno del debutto sul FTSE MIB, sul paniere principale, le azioni avevano guadagnato quasi il 3%, avevano poi consolidato i rialzi nel giorno seguente, per poi invece perdere terreno e arrivare ad arretrare del 3,5% circa, quindi dalla chiusura del 21 dicembre, per poi concludere oggi con un calo dell'1,58%. Male anche Tenaris, anche se non è tra i titoli che poi sono andati peggio oggi, ha chiuso le contrattazioni con una flessione dello 0,86%. Sì, allora Tenaris è stato uno dei peggiori titoli della mattinata e poi ha tentato di recuperare terreno. Allora gli investitori oggi hanno preso spunto dal declassamento di Exambia e Paribas per prendere beneficio sul titolo, che negli ultimi due mesi aveva guadagnato oltre il 26%, segnando i massimi dell'anno lo scorso 22 dicembre. Secondo gli operatori la società rimane sempre ben posizionata rispetto ai concorrenti, ma questo vantaggio competitivo è già comunque incorporato nella valutazione del titolo. Tenaris, sempre secondo gli operatori, ha infatti recuperato parte del suo premio rispetto al concorrente francese Vallourec, che oggi ha guadagnato oltre l'1%. Parliamo invece di chi oggi è riuscito ad andare bene, è riuscito a chiudere con il segno più. Fiat è stato molto brillante oggi a Piazza Affari, chiude come miglior titolo, più 1,53%. Sì, quindi Fiat ha recuperato terreno dopo le perdite della vigilia, chiuso in controtendenza rispetto al comparto auto, che ha terminato la seduta sotto la parità. Chiuso in positivo anche Exor, il socio di riferimento, con un rialzo dell'1,07%. Il titolo del Lingotto, nel giorno dell'incontro con i sindacati sullo stabilimento di Pomigliano, ha beneficiato ancora delle attese del mercato per possibili operazioni straordinarie in vista della quotazione il 3 gennaio di Fiat Industrial, che è la società che comprende le attività non auto del gruppo. Alcuni giorni fa la stampa aveva riportato nuovamente indiscrezioni relative a una possibile trattativa tra Daimler e Fiat per la cessione di Fiat Industrial o di una sua parte, quindi il mercato comunque continua a credere ad operazioni straordinarie dopo la quotazione di Fiat Industrial. Bene il settore delle costruzioni, Buzzi Unicem più 0,94%, Italcementi più 0,77%. Sì, allora, inizialmente all'inizio della giornata di oggi gli investitori avevano preferito Buzzunicem rispetto ad Italcementi, che invece poi ha chiuso in territorio positivo. Bisogna ricordare che Italcementi dal 3 gennaio lascerà il posto sul paniere principale a Fiat Industrial, quindi che verrà quotata subito tra le big del listino. Per quanto riguarda Buzzunicem, bisogna ricordare che la società dai minimi degli ultimi 4 mesi toccati il 30 novembre ha praticamente guadagnato quasi il 20%, sommando anche il rialzo di oggi pari allo 0,94%, anche se comunque i volumi sono stati piuttosto risicati visto il clima festivo. Tra le piccole invece, Livia, qualche caso? Sì, allora, tra le piccole bisogna sottolineare Cape Life, che è stata la migliore del listino e ha guadagnato il 15,5%, e le azioni hanno beneficiato dell'ingresso nel capitale con una quota del 4,5% circa di Atlantis Capital Special Situation, che ha tra gli azionisti investitori istituzionali e note famiglie dell'imprenditoria italiana. Quindi i soci di Cape Life e Atlantis hanno sottoscritto un accordo in vista dell'assemblea dell'11 febbraio e ora detengono complessivamente il 28% circa della quotata. Inoltre Cimino, che è il fondatore di Cape Life, ha iniziato a rastrellare delle azioni proprio in vista dell'assemblea. Tra gli altri titoli bisogna sottolineare anche la Lazio, che ha guadagnato il 13,6% dopo una perdita di oltre il 57% dalla chiusura del 27 ottobre. Grazie a Livia Zancaner, collega di Radio Cor Sole 24 Ore, per essere stata con noi. A lei l'augurio di una buona serata. Grazie mille anche a voi. E noi abbandoniamo la borsa, la giornata a Piazza Affari e non solo, sui mercati europei e, per quanto riguarda New York, quello che sta succedendo sul Dow Jones e il Nasdaq, che attualmente sono praticamente piatti, e ci spostiamo a Pomigliano e parliamo ancora una volta di Fiat e di quanto è accaduto oggi, anche se ciò che è accaduto a Roma. Diritti sindacali e inquadramento, questi sono i primi temi affrontati dal Lingotto e dai sindacati per la messa a punto della New Co di Pomigliano d'Arco, che dovrà regolare il rapporto di lavoro di circa 4.600 dipendenti dello stabilimento napoletano. La trattativa si sta svolgendo appunto nella sede romana del Lingotto. Una volta definito il contratto della New Co, la Fiat darà il via alle assunzioni dal 2011. Vincenzo Miglietta è il nostro collega collegato con noi da Roma. Buonasera Vincenzo. Buonasera ai nostri ascoltatori. Vincenzo, che succede? Che cosa sta succedendo? Che notizie hai? Sì, la situazione è sicuramente positiva, il clima è molto cordiale, sicuramente non si chiuderà questa sera ma si andrà domani, le parti puntano a chiudere entro domani e, come dicevi giustamente da studio, per quanto riguarda Pomigliano l'agenda è la seguente: chiudere questo contratto e poi, una volta definito il testo, la Fiat darà il via dal 2011 alle assunzioni, parliamo di oltre 4.500 lavoratori. Al programma di investimenti circa 700 milioni di euro in vista della produzione della nuova Panda, quindi linea in progettazione, che non sarà più prodotta l'attuale Panda in Polonia ma andrà proprio in Campania. Tre i nodi che sarà interessante vedere come verranno sciolti: salario legato alla produttività, orario di lavoro e scatti di anzianità. Quindi si sta lavorando soprattutto intorno a questi tre argomenti, ma come dicevo il clima è molto cordiale tra le parti. Ricordiamo che non è presente la FIOM e ci sono tutte le altre sigle che hanno chiuso il contratto che fu siglato a giugno. Vincenzo, tu dicevi un clima cordiale, quanto emerge anche dalle parole di Giovanni Sgambati, segretario generale della UILM della Campania, interpellato durante una pausa della trattativa, ascoltiamolo. Stiamo ragionando sulle premesse per costruire l'accordo, siamo a un buon punto di ragionamento, adesso c'è una prima interruzione, è ovvio che i tempi sono lunghi per vedere i testi, lavoreremo tutto il giorno e anche domani. Penso che faremo un buon accordo per i lavoratori di Pomigliano innanzitutto e che possa essere anche, diciamo, a garanzia di quello che abbiamo realizzato il 15 giugno. C'è accordo, intesa all'interno? Sì, c'è molta concordia perché nasce con delle premesse fatte il 15 giugno ovviamente. Quali sono i temi che sono stati affrontati fino a questo momento, i punti che sono stati... Tutti i punti del contratto, non c'è una parte minore, quindi cercheremo di apportare tutti i contenuti migliorativi del contratto dei metalmeccanici in un accordo aziendale. Quello che si è dato sapere è che anche il salario sarà migliorativo? Stiamo lavorando anche per questo, è ovvio che siamo ancora alle prime battute. E allora, come diceva anche Sgambati, sono alle prime battute, vedremo che cosa succederà. Intanto io ringrazio e saluto Vincenzo Miglietta, il collega appunto che è a Roma a seguire per noi questa trattativa. Grazie Vincenzo, anche a te buon lavoro e buona serata. Buonasera, grazie. Noi ricordiamo in breve che cosa succede a Pomigliano. Si tratta di 4.600 addetti che oggi producono la Alfa 147, la GT, la 159, la Fiat Bravo. Lo stabilimento è nato nel 1968 grazie a 300 miliardi di lire di finanziamenti della Cassa del Mezzogiorno. Nel 1972 ha cominciato a produrre l'Alfa Sud. In passato ha avuto anche problemi di scarsa qualità del prodotto, tanto che ogni vettura doveva essere sottoposta, oltre ai normali controlli di qualità, ad una ulteriore revisione finale. Nel 2008 è stato ristrutturato e ammodernato, 120 milioni di investimenti Fiat, una chiusura di 3 mesi di operai in cassa integrazione e aggiornati con nuovi corsi di formazione. Da allora lo stabilimento è stato ribattezzato Giambattista Vico, ha una produzione qualitativamente in linea con gli standard del gruppo. Come ricordava anche il nostro collega, il Lingotto vorrebbe trasferire qui la produzione della Panda, che attualmente viene prodotta in Polonia. Quali sono state le dichiarazioni di oggi? La segretaria della CGIL Camusso ha dato dei giudizi che non condivido su Marchionne. Questo è quanto ha detto il ministro Romani, ma mi sembra che abbia dato dei giudizi severi sulla FIOM, cioè a casa sua. Questo ha sottolineato il ministro per lo sviluppo economico Paolo Romani. Sul fatto che il governo debba intervenire direttamente al tavolo di trattativa Fiat tra le parti sociali, il ministro ha le idee chiare. Il governo non intende intervenire, la Fiat non è in crisi, ha detto Romani, è una società che intende investire. Per quanto riguarda la CGIL, l'area programmatica congressuale, la CGIL che vogliamo, chiede formalmente la convocazione urgente e straordinaria del direttivo nazionale con all'ordine del giorno la vicenda Fiat. Questo è quanto ha comunicato con una nota il coordinatore nazionale dell'area, Gianni Rinaldini, che ritiene necessaria una riunione urgente perché la CGIL possa fare una discussione vera sugli effetti dell'intesa, sulle modificazioni radicali che introduce nel mondo del lavoro e nel sistema di relazioni sindacali, sulla risposta di mobilitazione da predisporre. Ricordiamo che quindi la FIOM è fuori sia da Pomigliano che da Mirafiori da questo momento in poi. Noi ci fermiamo, diamo la linea al GR e ci risentiamo subito dopo. Sono le 18:08, seconda parte di Focus Economia e ancora rapidamente andiamo a vedere la chiusura dei mercati. Oggi lo abbiamo detto anche in compagnia della collega di radio Cor, la giornata era partita con il segno più, si conclude praticamente piatta per l'Europa, con Parigi che cede uno 0,09%, Francoforte che guadagna uno 0,02%, Londra è ancora chiusa per festività. Per quanto riguarda Milano invece segno meno, il FTSE All Share cede uno 0,25%, il FTSE MIB lo 0,32%. Sul listino principale il miglior titolo è Fiat che guadagna 1,5%, seguita da Exor che guadagna poco più di un punto, Ansaldo più 1,03%, il comparto legato al cemento, Buzzi Unicem più 0,94%, Italcementi più 0,77%, Luxottica guadagna lo 0,74%. In fondo al listino invece Tod's cede il 2,58%, è il peggior titolo di oggi, Diasorin cede 1,5%, Impregilo l'1,5%, la Popolare di Milano l'1,38%, UbiBanca cede l'1,18%. Per quel che riguarda i cambi, l'euro viene scambiato 1,31,13 sul dollaro. Diciamo che l'Europa si è indebolita ulteriormente dopo l'apertura dei listini statunitensi. In questo momento il Dow Jones guadagna uno 0,02%, mentre il Nasdaq cede uno 0,04%. Hanno influito alcuni dati in arrivo dagli Stati Uniti, dati un po' contrastanti a dir la verità. Bene le spese per quanto riguarda il periodo natalizio, più 5,5%, male invece la fiducia dei consumatori, che cala oltre le previsioni degli analisti, e anche il prezzo delle case cala oltre le previsioni, e questo sicuramente ha influito sull'andamento di Wall Street, che ha aperto con il segno meno e che adesso appunto si porta sulla parità, e ha influito anche sulla chiusura per quanto riguarda l'Europa. E adesso alcune notizie in breve che vorremmo nuovamente raccontarvi. In particolare quelle relative all'Italia. Allora cominciamo da la previsione del Servizio Studi di Intesa San Paolo, che per quanto riguarda proprio il nostro paese nel 2011 vede un PIL in crescita dell'1%. Contratti. Nei primi 10 mesi dell'anno che si sta per chiudere si è assistito alla chiusura di 23 accordi, poco più di 3 milioni di dipendenti che nella maggioranza dei casi, 15 su 23, hanno adottato il nuovo modello triennale. Questo è quanto fa sapere l'Istat nel rapporto sulle relazioni industriali e la recente dinamica retributiva contrattuale. A proposito di lavoratori, a proposito di pubblico impiego, con il blocco degli stipendi pubblici fino al 2013 deciso dalla manovra economica, i lavoratori del pubblico impiego perderanno complessivamente circa 1.600 euro di potere d'acquisto. La stima arriva dalla CGIL, che sottolinea come circa 1.200 euro lordi si perdono per il triennio 2010-2012 di mancato rinnovo dei contratti, mentre altri 400 euro di aumenti complessivi mancheranno alla appello nel 2013 a causa del blocco ulteriore previsto dalla stessa manovra. E poi forse lo avete sentito anche nel corso del nostro giornale orario: per i dirigenti della pubblica amministrazione ne arrivò una sforbiciata sugli stipendi. Dal 2011, infatti, secondo quanto prevede la manovra economica approvata quest'estate, i trattamenti complessivi dei singoli dipendenti della pubblica amministrazione, anche di qualifica dirigenziale superiore ai 90.000 euro, saranno ridotti del 5% per la parte eccedente il limite. Il taglio vale fino al 31 dicembre 2013. Tagli più pesanti per gli stipendi superiori a 150.000 euro. E poi, in tema di tagli, si taglia anche al Quirinale. Il Presidente della Repubblica Napolitano ha adottato i decreti attuativi dell'ordinamento interno per il triennio 2011-2013, in particolare sono applicate anche qui le trattenute del 5 e del 10% sugli stipendi superiori ai 90.000 e ai 150.000 euro, bloccate anche le progressioni automatiche di anzianità per le fasce stipendiali più elevate e mantenuto il blocco dell'adeguamento all'incremento del costo della vita di tutte le retribuzioni e dei trattamenti pensionistici in atto dal 2008. Crisi e consumatori. La crisi economica non ha frenato nell'ultimo triennio in Italia la corsa delle tariffe pubbliche, ben superiore al dato inflattivo negli ultimi 3 anni. L'allarme arriva dalla CGIA di Mestre, che ha calcolato l'incremento tra il 2008 e il novembre del 2009 dei costi di alcuni principali servizi pubblici. La variazione più importante è quella dei pedaggi autostradali, più 10,8%, a seguire il costo del gas, più 8,9%, trasporti ferroviari, più 8,7%, rincari anche nei servizi postali, più 7,3%. Alcune variazioni negative però: è scesa l'energia elettrica, meno 0,4%, e anche l'acqua potabile, meno 1,2%. Questi rincari alle spalle, rincari però che ci saranno anche nei prossimi anni, almeno secondo i calcoli dell'Adusbef e di Federconsumatori. Una stangata di oltre 1.000 euro per le tasche delle famiglie italiane, tra rincari di alimentari, benzina, tariffe varie, assicurazioni, servizi bancari. Il 2011 sarà un anno infelice, così lo hanno definito i consumatori, con un impatto di 1.016 euro annui a famiglia. E noi adesso parliamo di spese per saldi e festività, prima di introdurre il nostro ospite, la nostra scheda. È ancora presto per tracciare un bilancio, ma le prime impressioni suggeriscono che quanto ad acquisti, il Natale appena trascorso, sia stato piuttosto tiepido, per non dire freddo. I negozianti sperano così che una sferzata agli incassi possa arrivare dai saldi ormai alle porte. In diverse città del sud, tra cui Napoli e Palermo, ci sarà infatti giusto il tempo di lasciarsi alle spalle i brindisi di Capodanno, visto che la corsa allo shopping scontato scatterà già da domenica 2 gennaio. Nel resto del paese bisognerà pazientare qualche giorno in più e attendere l'Epifania. Il periodo dei saldi terminerà poi per tutti con la fine di marzo. Da qui a primavera, e secondo le stime di Confcommercio, ogni famiglia spenderà per i saldi circa 415 euro, ossia 173 euro a testa. Per acquistare vestiti ed accessori verranno spesi complessivamente 6 miliardi e 200 milioni di euro, vale a dire il 18% del fatturato annuo del comparto. I commercianti si dicono ottimisti. Proprio a causa di vendite invernali non troppo brillanti, potranno infatti rivolgersi ai consumatori con un'offerta di prodotti invenduti molto ricca, sia in quantità che qualità. E soprattutto, gli sconti dovrebbero essere significativi e mediamente superiori al 40%. Di diverso avviso le associazioni dei consumatori, che preannunciano una stagione di saldi flop e chiedono che le vendite scontate possano partire da subito in tutta la penisola. Indicazioni non troppo incoraggianti sulle effettive disponibilità finanziarie delle famiglie arrivano dalle previsioni sulla spesa per il cenone di San Silvestro. Questa volta ad anticipare i conti è Confesercenti, che prevede una spesa media di 104 euro contro i 117 euro di un anno fa. Un po' di numeri, un po' di dati in questa nostra scheda. Tra pochissimo ne parliamo con Renato Borghi, presidente di Federmoda e vicepresidente della Confcommercio. Adesso però ci fermiamo per qualche istante. Linea alla viabilità. Le 18 e 17 minuti, allora parliamo di spese per saldi, ma anche spese natalizie. Alcune notizie di oggi, ad esempio la Confesercenti ha stimato un calo della spesa per il cenone intorno al 9%, e per quanto riguarda i saldi c'è un appello delle associazioni dei consumatori per avviarli da subito. La Coldiretti, che ci racconta che un italiano su quattro ricicla i regali, questo potrebbe essere anche un bene, non solo indice di una criticità per quanto riguarda la possibilità di spesa. Noi ne parliamo di tutto questo con Renato Borghi, presidente di Federmoda, vicepresidente della Confcommercio. Buon pomeriggio, benvenuto. Buon pomeriggio a voi, grazie. Allora, presidente Borghi, partiamo da una premessa che forse è poco felice, ma insomma questo Natale non è andato proprio benissimo. Ma diciamo che Natale non è andato bene per quanto riguarda i capi spalla nel settore dell'abbigliamento, mentre per quanto riguarda gli articoli da regalo, quindi gli accessori di abbigliamento intesi, quindi ad esempio come guanti, maglieria, camiceria, sciarpe e quant'altro, i risultati sono stati abbastanza buoni. Questo fermo dei capi spalla dell'abbigliamento però è una cosa abbastanza consueta negli ultimi anni, in quanto la gente, i consumatori aspettano i saldi per comprare dei capi importanti e quindi dicembre è sempre abbastanza debole. Come ripeto, sugli accessori d'abbigliamento noi siamo moderatamente soddisfatti. Per quanto riguarda anche altre categorie merceologiche, però il Natale appunto non è stato molto positivo, hanno tenuto molto gli articoli dell'high tech, che generalmente sono anche più costosi, però evidentemente conquistano di più il pubblico. Beh, non c'è dubbio che c'è un atteggiamento culturale, ma insomma non è nuovo, è da qualche anno, di cambiamento di stili di vita e anche di consumo, per cui l'high tech, in particolare quest'anno tutti gli smartphone, i tablets eccetera, si sapeva che erano articoli molto richiesti dal pubblico, in particolare dai giovani, ma non solo, e che in particolare, ecco, il classico regalo dell'abbigliamento o della moda avrebbe patito un po' la concorrenza di questo articolo tecnologico, però direi previsto, così si è realizzato. Ecco, quello che non mi vede totalmente d'accordo è che sia stato un Natale negativo. È stato un Natale nel contesto di una coda della crisi che ancora pesa, sì. Certamente non effervescente, ma neanche fortemente negativo. Vabbè, diciamo che poi ci sarà tempo per elaborare tutti i dati, visto che il Natale è appena trascorso e quindi ci sarà tempo poi per vedere proprio con dati alla mano che cosa è successo realmente. Guardiamo in avanti, saldi alle porte, tra pochi giorni. Voi avete calcolato che la spesa media per la famiglia sarà intorno ai 400 euro. Sì, naturalmente si tratta di una spesa media, va tenuto conto, poi lo vedremo a consuntivo come succede tutti gli anni, che la spesa non è uguale su tutto il territorio nazionale, troveremo famiglie per esempio nord-est e nord-ovest dove c'è un potenziale di spesa e anche una vocazione ad acquistare durante i saldi maggiore che in altre regioni o territori italiani, ecco, ma la media è 400 euro a famiglia, circa 170 euro quindi a persona, per un totale di spesa di consumi d'abbigliamento che supererà i 6 miliardi di euro. Senta Presidente, il fatto che i saldi cominciano con date diverse per le diverse città in qualche modo può scoraggiare, svantaggiare? So che c'è un appello dei consumatori per avviarli da subito e contemporaneamente in tutte le città italiane. Beh, l'appello dei consumatori naturalmente mi permetto di dire poi dei consumatori, delle loro associazioni, non dei consumatori, è tardivo, in quanto questa richiesta di avere una data unica su tutto il territorio nazionale l'abbiamo presentata noi come Confcommercio, cioè come Federmoda, quindi dettaglio tradizionale di moda, e come Federdistribuzione, quindi grande distribuzione. Abbiamo chiesto una data unica per mettere sullo stesso piano della concorrenza tutte le aziende, perché la data unica sia un riferimento di certezza per i consumatori, anche gli stranieri, diciamo noi, perché insomma è abbastanza strano che in un paese, per esempio a Firenze, faccio un esempio, ci siano i saldi, invece a Roma no. Quindi noi abbiamo fatto questa richiesta circa due mesi fa, devo dire che c'è stata una prima buona, noi giudichiamo, accoglienza, se pensa che tutte le regioni del nord, in più aggiunga il Lazio, in più aggiunga la Puglia, adesso vado a memoria, quindi un numero rilevante di regioni hanno accolto questa proposta e scelto, come noi abbiamo suggerito, la data del 6 di gennaio. Qualche regione del centro-sud è rimasta, come dire, indietro rispetto a questa nostra richiesta, ma noi la reiteremo perché siamo convinti che sia la data unica sia necessaria e utile. Presidente, nonostante il fatto che lei mi sia sembrato abbastanza ottimista sul Natale, sulle vendite natalizie, diciamo ottimista rispetto a quanto altri hanno detto, c'è comunque un problema di domanda interna per questo paese, che è fondamentale per qualsiasi paese, lo stimolo della domanda interna. Noi abbiamo un export che continua ad essere, diciamo così, abbastanza forte, anche se non più come i mesi scorsi, ma la domanda continua, insomma, ad essere un po' in difficoltà. Che cosa secondo voi bisognerebbe ancora fare, visto che l'anno scorso, per esempio, avevate molto puntato sulla detassazione della tredicesima, che poi non è arrivata, ma comunque sia, era stata una proposta molto, molto forte da parte della Confcommercio? Guardi, noi puntiamo ancora, questa è una richiesta che noi non abbandoneremo perché ci sembra ragionevole comunque. Noi sosteniamo che per rilanciare i consumi sia necessario detassare i redditi delle famiglie o ridurre la tassazione, perché guardi, non è necessario essere un economista. I consumi hanno due grandi motori, due grandi reattori, che sono il reddito disponibile netto delle famiglie, cioè quello che rimane in tasca alle famiglie una volta pagato le tasse e le spese indifferibili, e il sentiment, cioè quello che è il clima di fiducia delle famiglie, cosa pensano le famiglie del loro futuro, del futuro del paese e quant'altro. È evidente che siamo in una fase in cui il reddito disponibile non cresce, io sostengo che non diminuisce neanche, però insomma non cresce, e c'è un sentiment, vedi anche la situazione politica solo di recente, forse, dico io, sbloccatasi, e il sentiment insomma non è positivo. Noi siamo convinti che al di là delle ragioni, come dire, macroeconomiche, però tutti gli indicatori dicono che insomma se non abbiamo superato la crisi siamo ancora in una coda della crisi, ma certamente il punto più grave di questa crisi è stato superato, questo lo dicono gli indicatori. Penso al mio settore, lei accennava prima all'export, dopo un lungo periodo travagliato di calo dell'export, il mio settore, cioè il settore della moda, ha ripreso fiato. Naturalmente i consumi sono gli ultimi che ripartono, in Italia poi non c'è mai stata una cultura forte del consumo, c'è, aggiungo, qualcuno che sembra addirittura faccia il tifo perché i consumi non ripartono, come se fosse un vantaggio per i commercianti l'andamento dei consumi e non in realtà un beneficio per l'intero paese. Ecco, noi siamo convinti che questa ripresa dei consumi, ancora se lenta, qualche primo segnale l'ha dato e speriamo che si rafforzi. La leva, come dicevamo, resta la leva fiscale, oltre che la difesa dell'occupazione, tutti i meccanismi possibili, diciamo, di solidarietà sociale per evitare che i dati dell'occupazione agiscano ulteriormente sulla perdita di consumo. Grazie Presidente, grazie a Renato Borghi, Presidente Federmoda e Vicepresidente della Confcommercio, per essere stato con noi. A lui buon lavoro e arrivederci. Grazie a voi, buon pomeriggio, grazie. E allora ancora pochissimi minuti insieme, poi il testimone passerà al collega Alessio Maurizi, che mi ha raggiunto in studio perché così ci racconta, ci dà qualche, così, qualche pillola su che qualche cosa, anticipazione, qualche piccola anticipazione. Ma sì, Valeria, noi stasera seguiremo ancora un po' le tracce di questa spy story che è stata aperta dall'editoriale di Belpietro su questo presunto attentato, attacco affini. Ci sono naturalmente numerose reazioni, la procura di Bari ha aperto una inchiesta, ma a quel che sappiamo nel fascicolo per ora c'è solo l'articolo di Belpietro. Ah, e non risulta nemmeno è un inizio. Speriamo non promettente, che non ci sia niente sotto, e non risulta nemmeno che ci sia una visita di Fini ad Andria, il luogo dove doveva avvenire questo attentato. Rientrato il caso delle dimissioni di Stefania Prestigiacomo, il ministro dell'ambiente oggi ha detto che resta nel PDL, quindi non c'è nessun caso. La dichiarazione l'ha rilasciata al settimanale di Alfonso Signorini, chi? E non è una battuta, ma è così. No, è proprio così. Sì, è proprio così. E poi, dato che domani il presidente Napolitano dovrebbe firmare il DDL, il disegno di legge Gelmini, la legge Gelmini sull'università, e dato che nei giorni scorsi si era parlata di regolarizzazione all'ultimo minuto di parenti direttori che venivano assunti, allora sentiremo il rettore della Sapienza e vedremo come è andata a finire anche questa storia. 800 24 00 24, a tra poco. Grazie Alessio Maurizi, a lui tra pochissimo quindi passerà il microfono per La Zanzara, un nuovo appuntamento con La Zanzara. Io ringrazio Roberto Scaltritti in regia, Mauro Del Corno in redazione, noi ci sentiamo domani. Radio 24, la passione si sente.